Sell peanuts, sell peanuts. Sell peanuts, sell peanuts. Sell peanuts, sell peanuts. Sell peanuts. Jazz on megahertz. Sell peanuts, sell peanuts. Sell peanuts, sell peanuts. Alla console Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Baroni da Sell Peanuts. Oggi il tema può essere quello degli incontri. Chiaramente nel jazz è il pane quotidiano, quello di confronti tra musicisti diversi, anche occasioni di confronto. In questo caso parliamo per lo più di formazioni in duo, a parte l'ultimo disco che ascolteremo, e gli altri sono dei confronti, diciamo, a due. E c'è una vena però ulteriore, a mio avviso, che accomuna un po' tutti questi personaggi, questi lavori, ed è quello di una sorta di nostalgia più o meno malinconica, ma comunque legata a una tradizione, al recupero, ma non tanto al recupero, proprio a un'evocazione di una tradizione che fa parte ormai di un passato lungo, perché attraversa più di un secolo di musica. E sono musicisti diversi, decisamente diversi tra di loro, che seguono anche stili molto, molto lontani, per lo più anche, come dire, di mezza età, a parte qualche giovane. Cominciando dal primo lavoro, un confronto che non è certo la prima volta che accade, quella tra Darius Jones e Matthew Shipp. Matthew Shipp è un pianista ormai più che affermato, fa parte della schiera, diciamo, dei pianisti che hanno dato di più a quello che si può definire l'avanguardia nel pianoforte. Ha un pianismo molto, tecnicamente molto completo, ha una preparazione anche accademica che riesce a dargli dei colori nell'utilizzo della tastiera, dei colori profondi, intensi e anche piuttosto diversi, anche comunque legati sempre a un'espressione che recupera appunto quasi come una sorta di revocazione il free, quello che è stato anche l'epopea lanciata da Cecil Taylor. L'incontro con Darius Jones, giovane sassofonista, ormai tra le voci più acclamate o comunque che riscuote maggiore attenzione o favore da parte della critica internazionale, non è un musicista che amo, d'altra parte però, come dire, è in dubbio che abbia delle qualità, delle originalità espressive, appunto anche in questo caso che lo accomunano a certi linguaggi del passato. Ha un suono piuttosto sgraziato, spesso stonato volutamente, calante, in qualche modo sembra quasi rievocare Jackie McLean per certi versi, però è ben lontano dal fraseggio come dire, lineare che poteva, pure originale, ma lineare che poteva avere McLean. In questo caso è Darius Johnson, invece, vabbè, più frammentato, più aggressivo, più introverso. Questo duo è una formazione che ha già visto diverse esperienze, ha una lunga ormai esperienza di concerti, anche in questo caso è una registrazione dal vivo, ed è alla seconda o forse la terza testimonianza discografica. Ascoltiamo un paio di composizioni che appunto testimoniano questo dialogo alla pari. Non c'è nessuno che accompagna e nessuno che è accompagnato. È proprio una sorta di dialogo alla pari che risente di varie tensioni o anche di varie distensioni nello svolgimento del concerto. Thank you. Questo era l'ultimo disco, Cosmic Leader, The Dark Side Recital, un disco che testimonia l'incontro, ancora una volta, l'incontro tra Darius Jones al sax contralto e Matthew Shipp al pianoforte. E questa era una sorta di rievocazione di certi percorsi che venivano fatti negli incontri a due già dagli anni 70, quindi non c'è nulla di nuovo. Sicuramente però mette in luce questo lavoro, appunto, le personalità direi coerenti tra di loro, di questi due musicisti. Personalità decisamente diverse sono quelle di Niels Klein, che incontra Julian Lage. Niels Klein è un musicista che nasce artisticamente già dagli anni 70 e sicuramente ha percorso le strade più diverse tra di loro. È un musicista che riesce a trovarsi a proprio agio sia nel rock d'avanguardia oppure nel free più integralista, come anche negli aspetti più lirici o folk, diciamo. E appunto in questo caso l'incontro con un giovane musicista, un giovane chitarrista newyorkese che ha ormai, insomma, ha messo insieme un po' di esperienza anche con John Zorn e un po' i musicisti, diciamo, diversi dei musicisti più interessanti sull'area della Grande Mela. Questo incontro appunto è contrassegnato da un duo di chitarre acustiche molto intimo, molto classico, diciamo che è un'evocazione in questo caso, se di una qualche malinconia di ricordi, può essere letto anche con questa chiave, è un incontro legato semmai al blues o alle radici, diciamo, del jazz, ma anche però molto altro, è comunque legato alla chitarra classica. Thank you. Una musica molto delicata, molto soffusa, questa che scaturisce dall'incontro tra Nels Klein e Julian Leitch, entrambi chitarristi, uno più anziano e più eclettico e l'altro più giovane. Un disco non sicuramente non straordinario, che comunque ha una sua vena poetica interessante, anche, o perlomeno piacevole. Un altro incontro, di due incontro è quasi difficile poterlo dire, perché frequenti sono gli incontri tra Dave Douglas e Uri Caine. Sono due musicisti più o meno coetanei che hanno attraversato gli ultimi 25-30 anni della storia, perlomeno newyorkese, del jazz, legando le proprie esperienze sia all'avanguardia, sia anche ormai, direi, da diversi anni, a una sorta di mainstream comunque elegante e di alto livello. Sono due musicisti decisamente anche molto celebrati, e qualche mese fa hanno dato vita a un incontro, una sorta di dialogo, con un tema individuato da Dave Douglas, legato a musiche sacre della fine Settecento, inizio Ottocento. Una parte, perlomeno, sono 10 brani, 5 sono presi da questi vecchi canti liturgici, e gli altri sono composizioni di Dave Douglas. Il risultato è esteticamente molto soddisfacente. Naturalmente, poi, però, non è che possa questo dare vita a nuove strade o indicazioni su quanto può accadere d'ora in poi nell'ambito sia newyorkese che di quello che può essere la loro ricerca, la loro carriera. Quindi anche in questo caso una sorta di evocazione verso una nostalgia, una sorta di malinconia di quanto è già accaduto nella loro esperienza musicale. Appunto, quella dei recuperi di partiture classiche non è certamente una novità per quanto riguarda Uri Caine, ma neanche Dave Douglas. Ascoltiamo questo incontro, un paio di brani di questo incontro. Thank you. Questo era il duo Dave Douglas Hurricane, il disco uscito per l'etichetta di Dave Douglas, la Greenleaf, Present Toy e Joyce. E, come dire, un disco che evoca certe atmosfere non solo della musica sacra della fine del Settecento, ma anche appunto di quello che può essere anche una visione più attuale, in questa sorta di malinconico recupero dei linguaggi più convenzionali di questi due musicisti. Un altro musicista che va a cercare, questo esplicitamente, va a cercare nelle radici del jazz anche per giocarci un po', è Steve Bernstein, che spesso appunto è con la sua formazione, una formazione che cambia nome spesso e volentieri, ma comunque i musicisti sono poi sempre gli stessi, è la MTO Orchestra. Steve Bernstein, che viene accompagnato da musicisti come Peter Afterbaum, che spesso è anche arrangiatore, oppure anche Michael Blake o Eric Lawrence, Doug Wieselman per esempio al clarinetto, Curtis Folkes al trombone, quindi un po' lo stesso carrozzone di musicisti che hanno lasciato tra l'altro una traccia decisamente importante dagli anni 80 in poi, e che negli ultimi anni si caratterizzano sempre di più per una sorta anche di rievocazione di quello che è la musica americana e della radice della musica americana. In questo caso Steve Bernstein incontra un pianista cantante di New Orleans, Henry Butler. E appunto anche in questo caso questo disco che si intitola Viper's Drag è la testimonianza di questo incontro. Direi in questo caso siamo di fronte a qualcosa di molto più giocoso di quanto abbiamo ascoltato finora, piuttosto divertente. Il primo brano è una composizione di Count Basie, quindi una rilettura di un classico di Count Basie e Jimmy Rushing, e il secondo brano che ascolteremo è una composizione di Henry Butler. In the back door cry. Yes, I left my baby standing in the back door cry. She said, baby, you got a home as long as I got mine. Count the days I'm gone. Oh, Lord. I said, when I leave you, baby, count the days I'm gone. There ain't no loving, there ain't no getting along. go, why go under? Bet you 5,000 till you're dead. Jack, come on, feel on it. Talking by head now, head now. Why go under? Come on, feel oh, I'm under. Jack, come on, feel on it. Talking by head now, head now. Why go under? Jack, come on, feel oh, I'm under. Jack, come on, feel on it. Questi erano Henry Butler al pianoforte, alla voce, Steve Bernstein alla tromba con The Hot Nine, quindi la formazione, una formazione che tutte le volte cambia nome e che comunque è più o meno la stessa che accompagna frequentemente Steve Bernstein. Il disco intitolato Viper's Drug. Questo era anche l'ultimo ascolto per oggi. Vi ricordo che l'intera trasmissione, anche le indicazioni discografiche, le potrete trovare nel nostro sito radiocittafujiko.it alla sezione playlist. Con questo è tutto, salve, alla prossima. Salt peanuts. Salt peanuts. Salt peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts. Salt peanuts. Alla console Sandro e Alfredo.